Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a sinistra, il pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Non che Fumetti a sinistra, il mondo dentro il balloon, che è uscito dalla sua redazione per spostarsi all'interno dell'archivio Centro Studi Dina Rinaldi. Ed è un centro studi che raccoglie fumetti e scritti che riguardano di fatto tutto un mondo che gravita intorno a Gianni Rodari. Di cosa si tratta, Morena? È un archivio che abbiamo costruito con la collaborazione di tante persone. Lo chiamiamo per questo archivio popolare perché è il contributo di uomini e donne che hanno donato soprattutto il giornalino Il Pioniere, ma anche tanti testi e libri in qualche modo attinenti a questo giornale, che riguardano anche l'Associazione Pionieri d'Italia, che era il promotore e il diffusore insieme a lui di questo giornalino. Questo archivio adesso ha una sede, oltre a quello online, quindi c'è quello cartaceo da circa un anno, e si sta pian piano arricchendo. Considerate che in questo momento abbiamo la raccolta del Pioniere quasi completa e mancano solo due anni, il 56 e il 57, quindi approfittiamo anche per fare un appello proprio per chiedere se qualcuno avesse questi numeri di darceli, perché sicuramente ne faremo buon uso. Considerate che un archivio ha un'importanza per la ricerca, soprattutto per i giovani, perché questo archivio riguarda un'epoca e un pezzo di storia che va dal dopoguerra, quindi dal 46, 48, dal 50 fino a circa agli anni 70. E attraverso questo archivio si può indagare sulla storia dei modelli educativi dei comunisti in questi anni. Trattandosi di un archivio, subito ammettiamo di non essere dei professionisti, quindi sicuramente guardando sono diverse lacune nella sistemazione e nell'archiviazione, ma sta di fatto che ci consideriamo un po' come quelli che al tempo di Mauro erano i medici scalzi, cioè interveniamo su un settore che altrimenti non vede intervenire nessuno, e quindi un po' come per quanto riguarda il sito, per tutto la Pioniere è scaricabile online, c'è perché qualche volontario in qualche modo si è inventato queste situazioni e perché, tra l'altro, come tu dicevi, ci sono anche dei donatori che invece di lasciare del materiale magari da tempo attivato nelle cantine, nelle soffitte e magari destinato al macero in un oblio, preferiscono affidarlo a noi che ne facciamo chiaramente un uso storico di ricerca, ma anche non solo una ricerca passiva, ma anche attiva, collaborando con diverse realtà che lavorano appunto sul discorso del pioniere, degli anni e del fumetto. Ne cito alcune che mi vengono a mente a volo d'uccello. Questa iniziativa 3-4 giorni fatta a Messina su Rodari, che si è giovato delle nostre copie del Pioniere, mandate chiaramente in fotocopia online, o ancora alcune scuole come quella di Rapallo, Busta Stizio, Firenze, che in video call hanno fatto il punto con gli studenti anche di una rivitalizzazione dei fumetti allora del Pioniere, cioè si pigliavano racconti come Ragazzi Negra degli anni 50 e ci faceva fare gli studenti la loro attualizzazione, che diventava magari vicino di casa, di porta, immigrato. Quindi c'è una continuità e anche una differenza in questo che si legge all'interno dell'attualità. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marijuana illegale. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me dice en el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra illegale. E quindi il Pioniere, ma non solo il Pioniere, ma anche i Protomi e quei giornali che dal 45 al 50 furono i tentativi, diciamo, e le prove generali per poi arrivare al giornale della Rinaldi e di Rodari. Parliamo in particolare del moschettiere, il moschettiere che esce negli anni 40. Io qui ho una copia, qui in archivio c'è una copia del 25 maggio del 47, con le avventure del capitano d'Avegnac. E si dice, sono avventure di oggi, di domani. Ci sono 6 cineromanzi, concorsi, premi, sport e curiosità. E il cineromanzo è di fatto l'antefatto del fotoromanzo, ma anche la trasposizione del cinema in fumetto. Qui i fumetti sono già con le nuvolette e quindi diciamo che sono già avanzati. In questo intonso giornalino che abbiamo per il moschettiere, naturalmente troviamo appunto Luciferba, rubriche, lettere, un super concorso per biciclette e così via. Ma poi, dopo il moschettiere, poi si arriva al pioniere del 1950. Ma mi preme anche dire che in questo archivio ci sono fumetti che sono invece recenti, perché abbiamo voluto dare lo stesso taglio che abbiamo dato per la trasmissione anche per l'archivio, vero Alfredo? Sì, perché se nella trasmissione abbiamo più che altro nella prima parte uno spazio dedicato al pioniere limitrofi e una seconda dedicata a ciò che è venuto dopo fino alle graphic novel, così nell'archivio di Narinaldi abbiamo da una parte una scaffalatura ricca dei numeri del pioniere, tutti i libri su scritti su Rodari, sul pioniere, su Pagliarini, l'inventore della Sezione Pioniere d'Italia. E l'altra scaffalatura a fronte invece nei fumetti a seguire o nei fumetti contemporanei ma competitor del pioniere e tutta una produzione fino alle graphic novel. Tu parlavi del foto romanzo fumetti, noi abbiamo per esempio questo numero del 50 di Intrepido, che fu chi inventò con i fratelli del Duca il foto romanzo, ancora con i disegni non scattati nelle foto negli studi di posa, ma con ancora i disegni, mirabili peraltro, però con già le diciture da fotoromando. Così come abbiamo un numero foglio ben precedente al pioniere, il foglio del ventennio, il Balilla, quindi l'organo ufficiale del partito fascista per indottrinare i ragazzi, che a fianco a vignette tutte italiche autartiche, ma vignette tra virgolette innocenti, che però poi veicolano pagine come quella che leggiamo 28 ottobre con un'immagine ieratica di Mussolini a cavallo che recita: Duce, i ragazzi italiani guardano tutti a te con infinito amore, ti giurano che attraverso il loro entusiasmo e la loro fedeltà la marcia d'ottobre continuerà all'infinito, e via dicendo. Titiano guardi il mare, Moretta che sei schiava tra le schiave, vedrai come in un sogno tante nave, e un tricolore sventola per te, faccetta nera, bella vissina, aspetta e spera che già l'ora s'avvicina, quando staremo vicino a te, noi te daremo un'altra legge, un altro re. La legge nostra è schiavitù d'amore, ma è libertà di vita e di pensiere, vendicheremo noi camicie nere, l'eroi caduti e liberano a te, faccetta nera, bella vicina, aspetta e spera che già l'ora s'avvicina, quando staremo vicino a te, noi te daremo un'altra legge, un altro re. Allora Rodari, Rinaldi e tutti gli altri avevano questo grave compito nella gioventù degli anni 50, con poche istruzioni, con tanti anni di guerra e di violenza alle spalle, di dare una nuova idea di socialità, di repubblica, anche attraversata dal fumetto. Infatti il pioniere proprio si basa su tutti gli altri valori, quindi c'è un problema di educazione appunto alla pace, alla democrazia, alla socializzazione, alla collaborazione e anche alla possibilità di lottare per cambiare il mondo. Questo è un insegnamento che nei fumetti, soprattutto di Rodari, c'è sempre, che uniti e lottando contro le ingiustizie è possibile cambiare la propria condizione e cambiare il mondo. In questo numero del Pioniere del 1951, considerate che il primo numero è del settembre 50, ci sono molte storie illustrate. In ultima pagina c'è appunto una striscia di Rodari che è Cipollino e i suoi amici. Cipollino ha avuto poi molta fortuna. Il primo Cipollino è stato illustrato e scritto sul Pioniere, poi più avanti diventerà un libro. Le belle illustrazioni sono di Verdini, ma altri illustratori ci sono nel Pioniere. Considerate che il Pioniere dedicava molto alla parte scientifica, quindi alle scoperte, a quello che veniva definito all'epoca il progresso, alle scoperte scientifiche, all'avventura spaziale e anche alla storia del mondo e della Terra. Tra gli illustratori del Pioniere troviamo una grande persona che è Amedeo Gigli, che ci ha donato per l'archivio ultimamente un suo lavoro, che è Donne in volo, datato 2019, scritto e illustrato da lui. Tra gli illustratori e gli scrittori c'è anche un grande che è Mario Sturani. Mario Sturani, che darà questa storia dell'universo, dal protozoo fino alle guerre stellari, assieme a Amedeo Gigli nell'illustrazione e Dino Platone nel testo, che saranno invece storie dell'uomo, dalle caverne fino a Yuri Gagarin, che sorvolò intorno alla Terra nel primo satellite orbitante, che aprirono una strada di divulgazione tecnico-scientifica che persino il potente Vittorioso riprese nel suo spazio Occhi sul Mondo, condotto da un altro grande intellettuale di questi anni, Alberto Manzi, quello che poi ci ricordiamo come Non è mai troppo tardi televisivo. Dicevo il Vittorioso, che è un giornale veramente di grande caratura, un grande competitor del Pioniere, che noi abbiamo tutta la collezione del 51, tra l'altro queste bellissime copertine di Cesar, che qui lo vedo uno ritratto con sottomarino atomico, il mito dell'atomica era presente in questi giornali sia il Vittorioso che il Pioniere, pagine e poi copertine che in qualche modo con Verdini il Pioniere in qualche modo copierà tra virgolette nel 57. Andando più indietro abbiamo anche dei pezzi storici come questo Corriere dei Piccoli del 27 dicembre 1908, quando ancora erano dei quadrati le figure e non con certamente quei balloon, ma con delle filastrocche in ordine ottonario. Oppure l'Intrepido per tutto l'anno del 1925, quando è formato ancora piccolo e con anche qui con queste storie, racconti, romanzi, siamo ancora ben lungi da arrivare alle strippe, ai balloon, insomma alla fine del fumetto come oggi più normalmente lo intendiamo. Direttore di Svampa, poi Numeri di Cuore, qui siamo nel 1923 e che trova anche qui questa forma antica della narrazione del fumetto per ragazzi, ottonari e immagini in quadrato. Più avanti invece c'è l'intera collezione del Corriere dei Piccoli del 1951. Insomma, stampe più recenti si alternano con stampe antiche e con stampe contemporanee. Qui comincia la sventura del signor Bonaventura e del re di Bellinzona, cui rubato han la corona. Il famoso poliziotto viene e cerca sopra e sotto. Il colpevole, assicura, è il signor Bonaventura. Detto fatto, benché questi, innocente si protesti, lo conduce dal questore come un vile malfattore. Ma nel parco, poco lunge, il bassotto li raggiunge e con salti e con guaiti a fermarsi par li inviti. L'attenzione così volta su una grossa quaccia folta. Per un buco giusto giusto introducesi nel fusto. Dopo un attimo il segugio viene fuori dal pertugio, con il muso incoronato dal diadema trafugato. Come facile vedere, a rubar fu il giardiniere, che alla sua capanna accosto la corona aveva nascosto. Quindi il nobile regnante, per il recupero esultante, fa una larga elargizione al bassotto e al suo padrone. E questa è una storia del mitico signor Bonaventura, che finisce sempre con un milione in saccoccia, un esempio del mirabile fumetto di Aristofano in una chiara esemplificazione delle strofi in ottonario. Poi la prossima settimana torneremo in questa chiacchierata tra me e Morena, proprio fatta nell'archivio di Rinaldi, per completare un po' lo sguardo sul materiale preziosissimo all'interno di questo centro di memoria cartacea. Passiamo invece a tornare a parlare dei pionieri, dell'associazione Pionieri, e di chi le ha inventati, Pagliarini, secondo il ricordo di un pioniere a Bologna, Luciano Sita, quello che con un altro personaggio davvero importante a Bologna, Sergio Martelli, ha promosso l'associazione proprio nella nostra città e poi recentemente, qualche anno fa, hanno anche prodotto una memoria di questa esperienza con questo pioniere a Bologna in cui Martelli e Sita erano coautori. E proprio da Sita sentiamo la storia viva di come si svolgeva l'attività dei pionieri, cose che oggi possono anche far sorridere nella loro semplicità, ma che per i ragazzi poveri del dopoguerra, che venivano spesso dalla campagna senza altre possibilità, facevano toccare il cielo con un dito ed erano la prova provata di quanto questi ragazzi non fossero affatto inferiori a nessuno, ma anzi avessero grandi qualità. E infatti poi dai pionieri non a caso sono sortite negli anni successivi dirigenti del movimento operaio, dirigenti sindacali, dirigenti delle cooperative, insomma personaggi di rilievo. Comunque la parola a Luciano Sita dopo un piccolo stacco musicale. Pagliarini è stato un grande personaggio, è una persona che ha dedicato la sua vita al problema dell'educazione delle giovani generazioni. Essendo stato anche fondatore dell'Associazione Pionieri, è stato quindi colui che ha fatto crescere una generazione negli anni 50-60 di persone che attraverso questa esperienza hanno poi potuto svolgere nella vita delle attività di particolare impegno. Io sono stato pioniere dall'inizio degli anni 52-53 perché da 8 a 10-12 anni ho fatto il chierico, ero un chierico che servivo messa, quindi un'esperienza che ho vissuto con una fase di crisi, perché l'oratorio, tutte le liturgie che avevano le suore, quelli che seguivano i ragazzi, le consideravo oppressive, del bisogno di divertirsi, di esprimere quello che i ragazzi, da giovani, volevano. E quindi colsi l'occasione di un incontro che feci con un altro grande personaggio che purtroppo ci ha lasciato di recente, Sergio Martelli, perché per me Sergio è stato colui che ha fatto vivere i pionieri a Bologna. Era attorniato fra l'altro da personaggi che arricchivano di attive, di passione per i pionieri, quello che Pagliarini, la Rinaldi avevano impiantato come associazione. Ricordo persone che ho conosciuto nel corso di questa mia esperienza dei pionieri, e incontrai Sergio Martelli che venne a parlarmi di questa associazione, e lui iniziò dicendo: guarda, mi presentò il pioniere, disse: non ti impegni tu, io avevo 13 anni, e mi cominciò a parlare di sti pionieri, mi portava dei pacchi di pioniere da vendere, cioè tu vallo a vendere a tutti, là dove ci sono dei ragazzi. E io cominciai a vendere il pioniere, fra l'altro andavo anche dai contadini che erano dei democristiani della Madonna. Io ricordo un certo Maran che quando andai a vendere il pioniere disse: beh, così piccolo già comunista sei. E poi diceva: no, io dei soldi non te ne do, se vuoi ti do due fette di salame. Insomma, mi voleva pagare dei prodotti che faceva lui. Come mi amo voglia non fece questione mai, qualche volta la porto anche nel tramvai, questa mattina il salamino mi comprai, ho comprato il salamino a mano basso, se qualcuno ti patisce che io canto, è inutile parlare, è inutile venire, sono un bel giovanotte, sono un gau, sono un gau, sono un gau. Dalla vendita dei pionieri poi con Sergio abbiamo fatto la grande esperienza dei campeggi, è stata un'esperienza fantastica, fra l'altro ne abbiamo organizzati due, io aiutavo Sergio a fare le buche più profonde possibili per le latrine perché era uno dei problemi, quando andavamo in questi prati dove c'erano dei boschi per impiantare le tende, l'ho aiutato a costruire questi campeggi, facemmo uno a Pian del Falco vicino a Sestola e uno a Labante che fra l'altro era di fianco a una chiesa, quindi la convivenza con il parroco era una roba di quelle incredibili, e in uno di questi campeggi, credo a Labante, c'era Gianni Morandi che era un pioniere e cominciava a strimpellare da ragazzino, faceva divertire tutti. Da questa esperienza, che fra l'altro doveva averne un'altra per uno scambio di esperienze con i pionieri ungheresi, che era già stato programmato, avevamo già tutte le carte per andare un gruppo di pionieri italiani in Ungheria e ci fu bloccato dal governo che ci tolse il permesso visto per andare. E fu dolore incredibile che provammo, perché era un'esperienza che per un ragazzo che viveva in una zona di campagna in mezzo ad un borgo, pensare di andare in un paese estero era un'esperienza che sarebbe stata fantastica. Ciò nonostante noi cominciamo ad organizzarci dei ragazzi, arrivammo a costruire un gruppo di una ventina di ragazzi nella zona delle Larghe di Fulno di Argelano, quindi basso bolognese, e eravamo pieni di iniziative, facevamo il campeggio di fianco ai maceri con delle tende costruite con tutto, facevamo delle robe che poi i nostri genitori erano preoccupati perché diciamo cosa combinato. Abbiamo organizzato le Olimpiadi Azzurre per diversi anni, la corsa nei sacchi, il salto in alto, tutte queste robe che erano poi nel manuale dei pionieri. E pensate che io incontro ancora dei vecchi pionieri, gente che vinceva il salto in alto. Poi noi organizzammo una festa dei pionieri, che è stata un'esperienza unica, perché organizzammo una festa, c'era chi andava a prendere i blocchi di ghiaccio per far diventare fredde le bibite, e poi un burattinaio che era un comunista di Cadefabbri che venne, perché eravamo ragazzi, a fare uno spettacolo di burattini, che allora era uno spettacolo anche per gli anziani, ce lo fece gratuitamente, e poi comprammo un proiettore di quelli a manovella per vedere i filmini di Charlie Chaplin. Thank you. con le dolcissime malinconiche musiche di luci della città firmate proprio dallo stesso Charlie Chaplin, noi ci congediamo per il momento con Luciano Sita per riprendere questo argomento anche nelle trasmissioni prossime, ricordando sempre che per risentire la trasmissione in podcast o entrate nel nostro sito www.radiocittafujiko.it oppure nel sito del CRAP ilpioniere.org. Ciao a tutti. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va mai?